Oggi, martedì 20 ottobre alle 18:30, parte la prima prova gratuita al Baraccano del Laboratorio di Teatro Fisico e Drammaturgia del Corpo fino all'ultimo respiro, organizzato dalla compagnia teatrale Legami. Il focus tematico di questo workshop teatrale è anche, diciamo, il concetto di rivoluzione inteso come moto interiore. Come mai l'avete scelto e in che modo si lega, secondo voi, al teatro? L'abbiamo scelto perché fa parte dell'indagine che coltiva la compagnia Legami da tanti anni, perché per noi è importante continuare a sviscerare l'umano come aggettivo qualificativo della nostra specie, perché per noi in questi anni è stato sempre molto importante coltivare il teatro in maniera artigianale e seguendo una ricerca che portasse lo spettatore ad avvicinarsi all'attore in un clima di comunità, perché ci rendiamo conto che l'arte ha il suo dovere politico di comunque ricordare e di continuare, insomma, a seminare quello che è più, diciamo, legato all'umano, e per noi intendiamo, diciamo, le emozioni, il contatto, che chiaramente in questo momento bisogna, insomma, farlo rientrare nel rispetto della normativa, ma ci sono sicuramente tanti modi sperimentali anche creativi per mantenere una vicinanza tra le persone. Questo tema della rivoluzione per noi è stato importante per ricordare, ma allo stesso tempo per metterci noi in prima linea, l'idea che lamentarsi e comunque vivere in uno stato di disagio non è, come dire, positivo, perché non include un cambiamento. Mentre provare a cambiare dentro di sé, cioè quindi dei meccanismi mentali e quindi delle abitudini e quindi soprattutto ciò che abbiamo costruito, no? Proiettato della nostra vita, o soprattutto anche di quello che è il nostro voler vivere, no? I nostri obiettivi, eccetera, eccetera, può essere un primo tassello di cambiamento. E questa è una sorta di rivoluzione, perché immaginiamo che poi individualmente ognuno di noi, cambiando i propri meccanismi, può cambiare quello che è la propria vita e, diciamo, come un sassolino buttato nel lago, poi il cerchio si può allargare fino a parlare di un cambiamento comunitario. E in questo periodo per noi è anche, come dire, una scelta anche forte, no? Rispetto a quello che sta accadendo, perché ci rendiamo conto che l'emergenza sanitaria è importantissima e quindi assolutamente la normativa è fondamentale, eccetera, eccetera, ma è importante che l'arte continui ad avere una funzione politica. Certo, avete dovuto cambiare, diciamo, questa edizione del laboratorio proprio a fronte di queste normative. Assolutamente sì, chiaramente è nostro, come dire, il nostro lavoro quello di essere sempre pronti a trovare delle soluzioni, e quindi chiaramente tutto il lavoro di contact non ci sarà sicuramente un lavoro che, come sempre, come non so se potete vedere dalle foto o comunque dal sito, prevedeva, diciamo, sudore e vicinanza e scambio non solo quindi emotivo ma anche fisico. Quello non ci potrà essere più, ma attraverso comunque un lavoro di ribaltamento potremo mantenere una vicinanza emotiva. Comunque continuare a vivere una sorta di comunità in cui non c'è la paura dell'altro. E questo lo facciamo attraverso il gioco, perché quello che abbiamo comunque potuto esperire durante quest'estate, in cui c'è stato questo workshop Circus Action, che il gioco è un po', come dire, la differenza che ci riporta al nostro essere piccolo, quando giocavamo ed eravamo immersi nel presente, un presente che apre tante possibilità e quindi non dà già l'idea di essere vittima, no? Di quello che succede all'esterno. E forse pensiamo che attraverso questa atmosfera giocosa le persone possano di nuovo rientrare in contatto con se stesso. E chiaramente questo si fa poi tramite degli strumenti teatrali che sono testati da anni, anche perché la mia esperienza è ventennale. Io vengo dal teatro di ricerca Grottoschiano, che mi ha sempre, insomma, segnato qual era la via per unire poi la parte, diciamo, di ricerca della compagnia Legami con la parte anche del Circo Sottosopra, che è il nostro altro progetto legato appunto al circo educativo. Io, Maria Grazia, ti ringrazio per questo approfondimento. Ricordo ancora una volta di andare, insomma, sul sito della compagnia teatrale Legami per approfondire ancora meglio questo laboratorio di teatro fisico e drammaturgia del corpo. Sì, anche perché chiaramente in questa occasione, più che in altri momenti, per noi è importante che le persone possano venire anche per lavorare sul proprio corpo e per rielaborare emotivamente quello che sta accadendo. Al di là, ecco, del tema della rivoluzione, è una fucina dove poter non solo formarsi attorialmente, ma anche poter, ecco, vivere una dimensione più umana di se stessi, ecco.